Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Gian dei Botanici, gruppo che si esibirà questo sabato 22 ottobre al Covo Club di Bologna insieme al Corpo Docenti. Ciao Gian, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Nel 2022 avete pubblicato diversi singoli, Grandina, Cose Superflue, Diverso Uguale e Un Istante, singoli che anticipano anche l'uscita del vostro prossimo disco. Innanzitutto vorrei chiederti di raccontarci un po' di questi singoli, se c'è un filo che li lega. E poi come si coniugheranno all'interno del nuovo progetto. Sì, allora, il filo che li lega, direi che è un po', insomma, la ricerca. Abbiamo cercato di fare un lavoro, diciamo, importante sulla parte musicale. Per quanto riguarda invece i testi, insomma, come sempre più o meno abbiamo fatto anche in passato, cioè parlano molto del nostro quotidiano, delle nostre incertezze, delle nostre esperienze, insomma, nel bene e nel male. Passando al disco, invece, come dicevamo prima, questi singoli anticipano un po' l'uscita che avverrà quest'autunno del vostro prossimo disco. Ti chiedo se puoi darci qualche anticipazione. Sì, allora il disco uscirà probabilmente verso inverno, perché stiamo ancora rifinendo delle cose, insomma, vogliamo essere sicuri che sia proprio come lo desideriamo. Poi uscirà un altro singolo, non abbiamo ancora definito l'uscita, però insomma, stiamo lavorando prima sull'uscita di singoli, poi per cacciare insomma il disco verso questo inverno, inizio anno. Ti faccio un'ultima domanda, Gian, questa sulla serata di sabato, che è tra l'altro domanda che ho fatto anche a Benzo del Corpo Docenti. Lui vi ha definito ormai grandi amici, voi vi esibirete uno dopo l'altro questo sabato al Covo. Ti chiedo che cosa dobbiamo aspettarci da questa serata. Dobbiamo aspettarci sicuramente una bellissima serata, perché siamo carichi sia noi che il corpo docenti. Non vediamo l'ora di suonare, anche perché almeno noi stiamo suonando un po' poco, quindi con il Covo puntiamo a fare insomma una grande stagione di concerti. Come sempre la dimensione live è quella che più ci appartiene e dove diamo il meglio, quindi speriamo insomma di riuscire a replicare quello che poi abbiamo fatto anche con l'uscita del disco Origami, che vennero 300 persone, fu per noi un grande orgoglio. Speriamo di poter replicare. Gian, io ti ringrazio e ci vediamo tutte e tutti questo sabato al Covo. Perfetto, grazie. Ti aspetto anch'io allora.